Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Obiettivo Salute Weekend. Ci siete? Vi aspetto, mi raccomando, sino alle 12.30 staremo insieme. Oggi parola d'ordine: freddo. Ci vuole calma, è sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma, è sangue freddo. Accanto a me oggi in studio la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa a Milano e a Salerno, presidente di Derming, l'istituto di ricerca clinica e dermatologica, che questa settimana avete potuto vedere anche nel corso delle video interviste che vanno in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì a mezzogiorno sulle nostre pagine Facebook, una sorta di match tra il dottor Google e il dottore in carne e ossa. Intanto buongiorno dottoressa Sparavigna, bentornata. Buongiorno. Possiamo toglierci sciarpe e cappello, adesso siamo al caldo, ma noi parliamo di freddo. La nostra pelle, quando il termometro tocca o scende sotto zero, ci lancia, no, dei segnali. Un SOS lo fa in modo suo, con segnali che raccontano un po' la sua difficoltà ad attrezzarsi, a resistere. Si arrossa, si secca, si screpola, prude. Con lei, dottoressa Sparavigna, oggi vorrei, in questo sabato di dicembre, fissare un po' i punti di un piano d'azione antifreddo, considerando che la nostra pelle in questo periodo richiede maggiore nutrimento per rinforzare e mantenere integro quel film idrolipidico che ha proprio la funzione, come lei ci ha spiegato anche durante la nostra intervista video, di barriera. Partiamo da qua, mettiamola allora la nostra pelle nelle condizioni di non avere freddo, di non avere paura del freddo e di ripararsi adeguatamente. In tre mosse, che fare? Anzitutto una detersione delicata e soprattutto adatta al nostro tipo di pelle, un'idratazione, il che significa apportare delle sostanze che riescano a trattenere l'acqua sulla superficie cutanea, gli strati più superficiali, e una protezione, il che significa andare a ricostituire quella barriera di sostanze grasse che non troviamo soltanto a livello del film idrolipidico di superficie, ma anche nella struttura della nostra epidermide. Quindi dobbiamo restituire alla pelle quello che le viene asportato da condizioni climatiche avverse. Dottoressa Sparavigna, quali sono le indicazioni per la scelta di prodotti mirati? Io so che negli ingredienti delle creme che noi utilizziamo, nei prodotti che utilizziamo per la detersione, ci sono dei nomi particolarmente un po', insomma, da addetti ai lavori. Come possiamo aiutarci, non essendo tecnici, a scegliere il prodotto giusto? Lei ha evidenziato a seconda del tipo di pelle, pelle grassa, pelle secca, pelle mista. Quali sono le attenzioni, le cure o anche gli errori da evitare partendo da questo tipo di pelle? Ciascuno di noi ha un'idea del proprio tipo di pelle, magari è mista e pensiamo grassa, ma insomma anche la persona può orientarsi. Lei ci aiuti a scegliere il prodotto giusto? Diciamo subito che anche chi ha la pelle grassa ha bisogno di una detersione che non sia troppo aggressiva. Sì. Perché a volte l'errore più comune è proprio questo: se c'è una tendenza acneica, se c'è una tendenza alla seborrea, detergere con detergenti troppo aggressivi, oppure per esempio troppo frequentemente, sì, o con acqua troppo fredda, con acqua troppo calda. Quindi la detersione deve essere sempre rispettosa di quelle che sono le nostri parametri cutanei di superficie. Detto questo, va da sé che a questo punto vanno utilizzati dei detergenti che noi chiamiamo SINDET, detergenti sintetici formulati apposta per rispettare questi parametri cutanei di superficie. E sulla confezione io leggo l'indicazione. Legge per l'indicazione, il tipo di pelle. Tipo di pelle, per la pelle sensibile, per la pelle delicata, adatto per i lavaggi frequenti, oppure per esempio che rispetta il pH di superficie, perché anche quello è molto importante. Oppure ancora ci sono delle sostanze surgrassanti o anche relipidizzanti, che sono quelle che apportano materia grassa a quelle pelli particolarmente screpolate. E quindi riformano un po' quella barriera che ci protegge dal freddo. Sì. Dottoressa Sparavigna, penso alla pelle dei nostri bambini. In inverno anche i bambini da città, quando arriva il freddo, diventano... No, belli coloriti, hanno queste guanciotte rosse, sembrano delle mele. Per noi mamme è segno di salute. Sotto l'occhio di un dermatologo forse la cosa non è esattamente così. No, certo. Ecco, possiamo proteggere anche la pelle dei nostri bambini? Assolutamente sì, dobbiamo farlo. Dobbiamo ricordare che la pelle del bambino tende a disidratarsi più facilmente, perché prima di tutto il film idrolipidico di superficie è ancora immaturo. E quindi, per esempio, non c'è una grande secrezione sebacea nel lattante, nel bambino, e quindi abbiamo una crema naturale della pelle che è abbastanza povera in lipidi. In più anche i lipidi strutturali dell'epidermide non sono ancora completamente formati, e quindi anche la barriera cutanea. Quindi al pupo io metto la crema prima di accompagnarlo fuori al parco, di accompagnarla all'asilo. Una crema che posso mettergli la mia? No, di solito sono delle creme studiate, progettate apposta per i bambini, contenenti soprattutto oli vegetali, tipo per esempio l'olio di mandorle dolci e altre sostanze che ci vengono dalla natura e che hanno questo effetto naturalmente protettivo. Noi continuiamo naturalmente il nostro così sorta di viaggio, dove raccogliamo i consigli dei nostri esperti per proteggerci dal freddo. La dottoressa Sparavigna resta con noi e noi abbiamo parlato di viso. La pelle si secca, tesa, si arrossa, e gli occhi lacrimano. Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore. Più che lacrima, fiumi di lacrime. Lo chiedo alle amiche che mi stanno ascoltando, capita anche a voi? Perché noi donne ci ritroviamo anche con il trucco che cola quando, dottoressa Sparavigna, gli occhi lacrimano, e l'effetto Nosferatu è assicurato. Il problema è che devi avere uno specchietto vicino, qualcuno che gentilmente te lo dice e ti fa vedere che hai tutto il mascara che ti cola. In linea con noi, non di mascara ma di occhi, parliamo con il prossimo ospite, che è il professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, piacere sentirla. Anche da parte mia. Professore, io ho un problemino. Il freddo, intanto il primo problemino è che le chiedo di restare con noi perché abbiamo le informazioni sul traffico, ma ritorniamo subito dopo insieme per parlare di occhi che con il freddo lacrimano, si lamentano anche loro. Allora chiederò al professor Nucci di imprestarmi il suo occhio clinico e suggerirmi naturalmente dei rimedi. Si può prevenire? A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Eccomi di nuovo con voi, Obiettivo Salute Weekend. Oggi parliamo di freddo. Mi lacrimano gli occhi dal freddo, per il freddo. Professor Nucci. Le ragioni per cui gli occhi lacrimano con il freddo sono di doppia natura. La prima è che molto spesso, quando c'è freddo, noi congestioniamo il meato nasale, la mucosa nasale, e quindi le lacrime fanno un po' più di difficoltà a passare dall'occhio al naso. Siamo tutti consapevoli dell'occhio che piange, quando piange ci sentiamo il naso pieno, perché le lacrime finiscono dentro il naso. Quindi quando il naso è congesto e il freddo questo lo fa spesso, non permette un buon passaggio, un buon deflusso delle lacrime dall'occhio al naso. Questa è la prima e più frequente ragione. Anche l'occhio secco, paradossalmente, può far venire più facilmente fuori le lacrime. Questo perché? Perché mancano con il freddo alcune strutture del film che mantengono il film stabile, quindi il film diventa più acquoso e sempre meno mucinico e lipidico, cioè mancano le componenti che stabilizzano il film lacrimale. Ecco perché quando si piange molto si finisce per produrre molta più acqua di quello che sono invece il muco e il grasso, che servono a stabilizzare il film, che non è più una patina ma diventa qualcosa di acquoso e viene fuori. Suona strano ma è così, professor Nucci. Abbiamo capito bene, quando l'occhio piange molto, potrebbe trattarsi di un problema che gli oculisti definiscono come occhio secco. Questa, il professor Nucci ci ha spiegato la ragione, perché le lacrime non sono più di buona qualità. Esatto, diventano più instabili, il fattore acquoso aumenta e quindi la lacrima diventa meno ferma sull'occhio e scende, scivola di più. Professor Nucci, un consiglio. Ma ci sono le lacrime artificiali, noi suggeriamo proprio lacrime artificiali, vorrei dire non qualsiasi lacrima artificiale, ma quelle che vengono fuori da ricerca, quella che vi viene suggerita dall'oculista. Si usano prima che l'occhio lacrimi per evitare, hanno una funzione preventiva o una funzione, tra virgolette, terapeutica, compensativa? Non cambia molto, mediamente si usa quando devono compensare, però esistono situazioni in cui è bene mettere con regolarità, quindi diciamo anche con una funzione preventiva. Professor Nucci, a lei lacrimano gli occhi? Sempre, sempre. Mi piace, siamo in due. Professor Nucci, buon sabato, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Dottoressa Sparavigna, gli occhi lacrimano e si arrossa tutta quella zona intorno agli occhi. Io facevo la battuta, noi donne col trucco, con la mascara diventiamo Nosferatu. Però proprio al freddo, quella zona perioculare che così tanti problemi ci dà, perché si segna, ci sono le rughette, oppure chi non ha le rughette ha le zampe di gallina, ha le borse, chi non ha le borse ha le occhiaie, insomma una zona ad alto rischio, delicatissima. Anche al freddo, contorno occhi, lo diciamo anche per gli uomini all'ascolto, che sono tanti. Dottoressa Sparavigna, un consiglio per gli occhi dei nostri ascoltatori. Bisogna effettivamente avere una protezione specifica per il contorno occhi. Perché? Proprio perché in questa zona abbiamo una particolare struttura, una particolare composizione dell'epidermide. Per esempio, di solito la crema che si utilizza per il viso non è adatta per il contorno occhi. Anche perché poi ci fa bruciare gli occhi, perfetto, se entra un attimo quando ci stropicciamo. Ma perché ci fa questo? Perché ci possono essere delle sostanze lipidiche, degli acidi grassi volatili all'interno della crema. Quindi se c'è un acido grasso volatile entra a contatto con la congiuntiva e con la cornea e ci irrita. E il bruciore è un attimo. Quindi contorno occhio vuol dire che ci sono dei prodotti, ormai lo sappiamo bene, che sono specifici proprio per quella zona. Mettetevi anche la cremina intorno agli occhi, perché sennò poi sono dolori. Bruciato al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa. Eh sì, continuiamo a parlare di freddo, primi freddi, primi dolori, ci siamo, le temperature sono crollate, fa freddo, ma c'è anche una buona dose di umidità ed ecco che dolori e dolorini si fanno sentire. Allora oggi vogliamo cercare di capire l'origine dei nostri acciacchi, vogliamo insomma sapere a chi possiamo dare la colpa, al clima, agli anni, alla mancanza di allenamento o al troppo allenamento. Ci aiuterà a individuare il colpevole, ma soprattutto ci darà delle indicazioni preziose per mantenere o per recuperare la nostra salute e il nostro benessere, il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'ospedale Humanitas e docente all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e bentornato, venga al Caltuggio con noi, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tempi duri, professor Selmi, per le nostre articolazioni che nell'immaginario collettivo sembrano essere molto sensibili al clima, al freddo e all'umidità. Non a caso si pensa che questa sia la stagione dei reumatismi, così almeno viene chiamata un gruppo di malattie che fa parte di una famiglia molto numerosa e varia. Professor Selmi. Esattamente, l'inverno è un brutto momento per le malattie reumatiche. Le malattie reumatiche sono una grossa famiglia di malattie che comprendono alcune più, diciamo, di degenerazione di articolazioni rovinate, è il caso ad esempio dell'artrosi, e alcune invece più infiammatorie, in cui quindi l'infiammazione viene prima del danno e l'infiammazione per definizione tende ad andare meglio con le temperature più calde o con l'utilizzo ad esempio della parte. E quindi dell'articolazione in questo caso. Lei il dolore lo conosce bene, dato che lo raccontano, glielo raccontano anche i suoi pazienti. Allora oggi vorrei che lei ci imprestasse il suo occhio clinico. Partiamo dalle mani. A volte i guanti non bastano a proteggerle dal freddo e sentiamo proprio il freddo, come si dice, che entra nelle ossa, nelle articolazioni in questo caso. A livello delle le mani per noi sono estremamente importanti in reumatologia. Da una parte la temperatura fredda può causare quello che si chiama il fenomeno di Raynaud, cioè una costrizione dei vasi che porta le dita delle mani o dei piedi a diventare prima bianche, poi blu, poi rosse. Questo è estremamente frequente soprattutto nelle giovani donne. Dall'altra parte le mani sono spesso sede sia di artrite sia di artrosi ed è tipica ad esempio la manifestazione più iniziale dell'artrite reumatoide a livello appunto delle articolazioni delle mani. Quello che distingue questi due tipi di condizioni è il tipo di dolore. Nel caso dell'artrite noi avremo un dolore che migliora con l'utilizzo dell'articolazione, nel caso dell'artrosi è l'esatto opposto, cioè l'utilizzo dell'articolazione, come ad esempio per scrivere o per impugnare qualcosa, porterà ad un aumento del dolore. Professore, il freddo riaccende i dolori. Quali sono i dolori reumatici che vanno peggio al freddo e perché? Questo è molto soggettivo. Più o meno metà dei pazienti sia con artrite reumatoide, forse qualcosa di più di quelli con artrosi, dichiarano di stare peggio durante i climi freddi e quindi soprattutto ad alcune latitudini del mondo. Certamente il peggioramento durante l'inverno è maggiore per quanto riguarda l'artrosi, quindi quel dolore più da utilizzo dell'articolazione, quello che noi chiamiamo un dolore meccanico che può colpire le ginocchia, può colpire il pollice, può colpire l'alluce del piede, può colpire le articolazioni in maniera abbastanza tipica. In questo caso quello che i nostri nonni chiamavano il cambiamento del tempo. Ecco, si fa sentire. Ecco, cambia il tempo perché mi fa male. Un classico di questa stagione del freddo è il mal di schiena. Anche in questo caso non è il freddo la causa, ma come dire, se il problema si presenta con più frequenza o maggiore intensità quando la colonnina di mercurio scende, come dobbiamo interpretarlo, professor Selmi, e soprattutto quali indicazioni e consigli può dare a chi si ritrova in questa situazione? Beh, innanzitutto nella maggior parte dei casi il messaggio è rassicurante. Tutti noi soffriamo di mal di schiena almeno una volta durante l'anno. Quello che ci deve far preoccupare è un mal di schiena che inizia in giovane età, che dura per più di 3 mesi e che peggiora nettamente con il riposo, soprattutto col riposo notturno, migliorando invece con l'utilizzo e quindi con la marcia, col cammino, con l'utilizzo della schiena. Al dolore della schiena, oltre al problema articolare, contribuisce anche la componente muscolare e in questo senso naturalmente il freddo è un pessimo compagno di viaggio per quanto riguarda le contratture muscolari che possono essere alla base di alcuni mal di schiena, soprattutto in regione cervicale. Professor Selmi, prima di salutarla, abbiamo parlato di dolore, di articolazioni, di reumatismi, così li chiamiamo noi. Quando intervenire con indagini o farmaci? Quando ci sono dei segnali di allarme, cioè quando si pensa che il mal di schiena, innanzitutto quando dura più di alcuni giorni, perché la buona notizia è che la maggior parte dei mal di schiena andranno a passare spontaneamente in pochi giorni. L'utilizzo di antinfiammatori è raramente giustificato dal dolore alla schiena, quando invece è molto preferibile usare degli antidolorifici, anche semplici e generalmente meno tossici rispetto agli antinfiammatori. Serve la maglietta di lana? Questo è estremamente soggettivo, direi sommariamente no. Generalmente mantenere un buono stile di vita, ad esempio con l'esercizio fisico, anche durante i mesi invernali, aiuta. A mio parere, un effetto nettamente maggiore. Meglio l'esercizio fisico della maglietta di lana, lo diciamo anche alle mamme che sono sempre preoccupate che i ragazzi non siano abbastanza coperti. Professor Selmi, la ringrazio e le auguro un buon sabato. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie, buon sabato anche alla dottoressa Adele Sparavigna che è rimasta con noi. Dottoressa Sparavigna, quindi adesso che noi usciamo da questo studio così riscaldato e ci buttiamo sulla strada di Via Monterosa, attenzione, avvertenze, un consiglio da una dermamica. Certamente coprirsi dal freddo, perché lo sbalzo di temperatura anche per il viso, magari se riusciamo a uscire in una maniera più graduale, sostiamo un po' nell'androne e poi dopo usciamo, questo ci aiuta senz'altro. Secondo me molto va fatto alla base. Certo. Per esempio, noi abbiamo parlato di oculistica, di dermatologia e di ortopedia. In realtà queste tre branche molto spesso sfruttano gli stessi principi attivi per avere dei risultati che sono diversi. Certo. Noi possiamo per esempio incrementare attraverso una dieta ad hoc o attraverso degli integratori alimentari la componente di acido ialuronico del nostro organismo. Che fa bene alla pelle, fa bene alle articolazioni. Eccola qui. Quindi vedete che comune. Poi alla fine tutto siamo torna. Sempre lì. Sì. Grazie dottoressa Grazie Sparavigna, a lei. Buon sabato. Noi ci sentiamo domani alla Bufala in Tavola, sempre a mezzogiorno, ve lo dico anche cantando, e quindi mi raccomando, preparatevi, io vi aspetto. E buon sabato da Nicoletta.